Uno, due, tre. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Per Shaqiri, la grande chance, la palla va in rete. Shaqiri da titolare in Coppa Italia, fa centro, Inter 1, Sampdoria 0. E ora De Silvestri, pericolosissimo, il suo retropassaggio, Icardi a vuoto, Romero e può appoggiare in rete Icardi per il 2-0. L'uomo in più sicuramente ci ha avvantaggiato alla lunga, anche se all'inizio è stato un po' uno svantaggio perché loro hanno chiuso tutti gli spazi, c'erano meno spazi, però la squadra ha giocato, ha palleggiato e quindi questo è, se noi riuscissimo a migliorare questa cosa qua ci vorrà un po' di tempo, però è quello che dovremmo fare. È sicuro, sappiamo la qualità di Shaqiri, quindi possiamo puntare al 100% che lui può decidere anche una partita quando è bloccata e quindi mi fa piacere che ha segnato nell'esordio e deve continuare a segnare e giocare bene come ha fatto oggi. Luigi Pardo, come va? È uscita questa notizia sul sito di Mediaset. Che dicono? Allegri vuole Cassano. Ma tutto è possibile nella vita, no? Tutto è possibile nella vita, anche questa? Ma sì, perché no? Non lo so, non ho conferme dirette, quindi. Però, insomma, la Juve sta cercando un attaccante, c'è Giovinco in uscita in un modo o nell'altro, no? Nel senso che comunque, se anche dovesse rimanere, giocherebbe poco per vari motivi di assicurazioni e probabilmente di testa già da un'altra parte, quindi. Mi sorprende, certo sarebbe abbastanza clamorosa, però sì. Insomma. Sarebbe mai dire mai. Ecco, il rapporto con Allegri sicuramente questo lo posso dire, è un rapporto buono, al di là del fatto che poi l'addio dal Milan fu brusco, ma questo lo posso tranquillamente dire. Sì. Da una parte e dall'altra c'è un rapporto, non sono lasciati male, no assolutamente, sono lasciati bene, anzi, quindi da questo punto di vista non vedo elementi ostativi. Si dice ostativi? Sì, dice. Ostativi. Però 8-0-0 mi sembra presto, 0-0-24 mi sembra presto, ma voglio dire, mai dire mai. Mai dire mai della vita. Mai dire mai. Giorgio De Luca, nostro autore, Fabio Cantatore in regia, Daniele Bonamici in redazione. Hai notizie di Osvaldo per caso? No, il caso l'ho sentito ieri, perché io poi continuo a ascoltare la radio. Ho sentito la meravigliosa clip di Chi l'ha visto. L'abbiamo trovato? Eccola qua. L'abbiamo trovato. Mancini, da giorni ieri sera è sparito nel nulla. È sparito nel nulla. C'è un nuovo tweet. Sì. Guarda, ti faccio vedere. Vediamo. Questo tweet di Mercè Muelast, che è sua cognata. Sempre donne, del resto è brutto. Sua Osvaldo, cognata. Brutta, fra l'altro, Mercè. Brutta, eh? Brutta, sì. Cosa sì, scrive, quando traduci? Dici una proprio. No, ma per favore, sei fastidiosa. E anche ragazzi, c'è De Luca che c'ha un momento di emozione. Traduci, non è, ma dai, non è neanche. Cioè, ci sono anche donne più belle, ma anche più brutte. Vabbè, sua cognata. Vabbè, comunque non è questo il punto. Che cognata vuol dire che è la. Che è la moglie del fratello. Ah, quindi è sposata. Ah, pure io, fra l'altro. Non quería olvidar esta foto y decirles gracias por todo, los quiero. Mercé, che scrive a Barón Jimena. E chi è Barón? Sarà il marito? Chi è? Si è preparato Barón Jimena e Danny Stone, che è Osvaldo. Non volevo dimenticare questa foto e dire grazie per tutti. Vi amo. Sono le solite foto spagnole che rimbalzano. Lui con maglia di Pink Floyd. We don't need no toll control, ma neanche Mancini, travel control. Mancini, perché, però, ieri sera ha detto: ma mi pare che oggi fosse la Pinettina. Si mormora. E vabbè, ma allora magari più vicino di quello che sembra. Chiamaci Danny Stone. Dai, o qualcuno ci faccia sapere qualcosa, insomma. Magari il Milan che lo vorrebbe. Sì, sì, sì. Anche Borriello, si è fatto anche il nome di Borriello, che però non era un passo del Genoa. Io non ci sto cambiando più niente. Quello sì, però, sai quanto prende Borriello? Quanto? How much? 4 l'anno più bonus. Vabbè, diversi dai, bonus. Ma sono dettagli, ma sono ragazzi. Più che altro sono un sacco di sordi. E poi non potrebbe più andare a cena dal mio amico da Dante. Sì, a Roma. Te ne immagini. Quartiere Prati, sì. I due botti alla fine, papam, Cassano, io e papam, Osvaldo al Milan. Mica male. Tanto per buttarla un po' in caciara, no? Sì. Allora, facciamo così. Adesso abbiamo il traffico. Poi sì, la buttiamo un po' in caciara sull'Inter. Vai, ieri sera. L'ho commentata per Mediaset Italia. Sai cos'è Mediaset Italia? Cos'è Mediaset Italia? Non fa dirlo questa parte. È un canale che va all'estero, quindi tu ti senti da solo, ma in realtà magari l'hanno sentito 57 milioni di persone. Esatto. Ecco, però si sono guardati. Ma senza tu sei in questa stanzetta e fai il commento. Però l'ho vista, l'ho commentata. Fra l'altro, non so se è stata ripresa, ma ti ricordi Inter Samp Tagliavento 9 come contro no? 11 è quella delle manette. Ieri invece 11 contro 9, sempre Tagliavento, niente manette. Ma il signor Zakic, che era il secondo di Mielic, non ha fatto le manette. Non risulta. No. 800 24 00 24, numero verde, traffico, poi torniamo. Bisogna migliorare la fase difensiva molto, perché solo se tu sei forte in difesa allora puoi essere molto offensivo. Dobbiamo velocizzare il palleggio, palleggiare meglio, tutte le cose che abbiamo fatto oggi farle molto meglio e avere continuità. Convocati. L'allarme scatta immediatamente e proprio perché lui non ha il senso dell'orientamento. Le ricerche ci sono, però non danno esito. C'è qualcosa da aggiungere alla sospensione di Osvaldo? No, assolutamente no. Mi ha sorpreso perché lui anche in spogliatoio è tranquillo, anche io trovo benissimo con lui. Mi dispiace perché perdiamo in qualità, perché lui come giocatore non possiamo dire niente, quindi questa è una decisione della società, di lui, quindi non posso parlare io. Mi dispiace per la persona che è lo Svaldo, ma di resto decide la società. Gene Gnocchi, il rompipallone di oggi. Osvaldo scomparso da più di 2 giorni. Mancini preoccupato. Quando giocava spariva solo per 90 minuti. Senti, l'agente di Cardi ha detto, a proposito del rinnovo, sì, il meglio deve ancora venire, che era il titolo dell'autobiografia di Mazzarri. Non porta benissimo. Lo salutiamo ovviamente Mazzarri, che sta uscendo, secondo me io lo sento, che sta, fra un po' parlerà, perché... Dici? Ma secondo me sì, perché avrà anche voglia di dire... Anch'io. Ma secondo me farebbe anche bene, nel senso che poi altrimenti si rischia di passare... Il primo fallimento, insomma, della sua carriera per una pietra tombale, però invece stiamo parlando di un allenatore ad altissima percentuale che aveva sempre fatto bene e che, insomma, fino a prova contraria, ad oggi ha un quoziente punti superiore a Mancini. Poi sicuro. Mancini probabilmente, lo auguriamo ai tifosi dell'Inter, supererà il quoziente punti di Mazzarri, ma ad oggi sicuramente, diciamo, la bacchetta magica Mancini non ce l'ha avuta. No. Ieri però si sono visti gli acquisti. Sono visti gli acquisti e si sentirà tra un istante Evaristo Beccarossi. Ciao Beck. Buongiorno, ciao. Ciao Beck, come stai? Che succede a Brescia? Che succede? Ma che ne so, speriamo che la mettano a posto la situazione, dai. Insomma, è una città importante, una squadra che ha grande tradizione e mi auguro che vadano a posto le cose per poter ripartire e ricostruire un ambiente che negli ultimi anni, insomma, qualche problema l'ha avuto. Che ieri ho letto, scusami Carlo, ieri ho letto un pezzo di Andrea Sorrentino di Repubblica, un'inchiesta fatta a Brescia. Ho scoperto un sacco di cose che un po' intuivo, ma che non sapevo così nello specifico. Cioè, che è una città ricchissima, piena, insomma, ci sono più fabbriche e persone, veramente clamoroso. Insomma, se... Golden Valley, però, perché nessuno, non ci sono imprenditori che vogliono mettere 2 lire, 2 euro nel Brescia. Dai, su, dai. Facciamolo, Evaristo. Ma non credo che sia quello il problema. Qual è? Il problema è quello di azzerare tutto e ripartire alla luce del sole, perché è una città e soprattutto anche i tifosi è una città che ha sempre appoggiato tantissimo la squadra e tutto, quindi c'è da tirare una riga, fare un progetto serio sportivo alla luce del sole, e le basi sono quelle. Poi nel caso i progetti sportivi io ci credo ancora, quindi devi scegliere bene le persone che sposino la causa di una società per poter fare dei programmi, dei progetti. E poi si prende Balotelli, eh? Si porta a casa Balotelli, si riporta a casa Balotelli. No. si può far bene perché è una piazza importante e c'è da ricreare tutto l'entusiasmo, l'appoggio ce l'hai, e secondo me nell'attimo che rimetti a posto la società, il pubblico bresciano, soprattutto anche gli stadi, secondo me entrano e sicuramente danno una mano. Sì. Senti Beck, sull'Inter invece, Osvaldo è sparito, non abbiamo ancora trovato, ma è ricomparsa l'Inter dopo la brutta figura, possiamo dire così, di Empoli. Ma cioè, dipende da come lo si vuole vedere, perché io ho visto anche l'Empoli a Roma, non mi sembra che sia una delle squadre momento ci vai a giocare facilmente. Ieri dicevo il miglior spettacolo calcistico italiano nel rapporto qualità-prezzo, naturalmente. L'Empoli? Ma sì, delle inquadrature anche a livello anche televisivo, tu vedevi una squadra corta, i difensori tutti ben in linea, cioè organizzatissima, vanno a 3.000 all'ora, quindi quello non è il problema. Il problema è che secondo me bisogna dividere le due fasi. Io sono sempre stato abbastanza fiducioso nel lavoro di Mancini, perché a parte che è un amico, ma so come lavora, quindi mi dà fiducia. Mazzarri, e mi dispiace dirlo, perché ci ha messo oltre il 100% delle sue possibilità, delle sue qualità, però è una cosa che secondo me non è mai decollata. Sì, però ma in questo momento Mancini non è che via Mazzarri Mancini deve vincere la Champions League o vincerà la Champions League. No, c'è un progetto da portare avanti. Già il fatto che ha portato 5.000 spettatori in più, secondo me ha tornato a far battere un po' il cuore ai tifosi nerazzurri, è già una cosa positiva. No, questo sicuro. Poi è riuscito a farsi comprare dei giocatori che a Mazzarri non credo avrebbero mai comprato. Ecco, pure questo va detto, insomma, per onestà, ripeto, poi Mancini, insomma. Sì, oppure bisogna vedere, nel senso che a volte si può anche sbagliare qualche scelta, certo. Non succede niente. Io credo che appena Shaqiri, appena Podolski, un po' di giocatori vanno ancora un po' più di condizione, secondo me può tirar fuori qualcosa di positivo. Non sono due giocatori che possono cambiare, Pier, secondo te? Ma allora, io su Shaqiri ero caldo, mi piaceva tantissimo, su Podolski meno. Devo dire che ieri sera mi sono piaciuti tutti e due, Shaqiri anche più di Podolski, ma Podolski comunque ha avuto dei grandi meriti, ha giocato una partita di grande continuità. Shaqiri ha avuto degli strappi più abbaglianti, ma secondo me hanno giocato molto bene tutti e due, insomma, sinceramente. E ad oggi, lo dico sinceramente, ma non è per togliere qualcosa a Mancini, ad oggi la cosa più importante che ha fatto Mancini è stata la capacità di farsi comprare i giocatori, cioè questo è oggettivo, perché insomma, se parliamo di quoziente punti, Mazzarri è ancora di un pochino avanti. Se parliamo di spettacolo e di prestazioni, secondo me nelle ultime due partite, a parte Empoli, diciamo contro la Juve e contro il Genoa, si sono visti dei segnali, ma la cosa più importante sono i protagonisti, ma l'ha detto Mancini l'altra sera a Tiki-Taka, sì, cioè certo. Comunque alla fine sono i giocatori quelli che servono. Dai, si era esaurito un amore, adesso c'è poco da fare. Non è che Mazzarri era come una moglie con la quale non si andava più d'accordo, non è che sia diventata una brutta moglie, gli auguriamo, e sicuramente si rilancerà da un'altra parte, ma non c'era più rapporto. Scusate se intervengo, io ho visto le due fasi, perché sono stato anche a San Siro e mi ricordo Inter-Sampdoria e c'era ancora Mazzarri. La cosa più brutta che avevo visto, che veramente un ambiente appiattito, sì. Cioè non c'era più sintonia tra tifosi, tra Mazzarri, tra l'assetto tattico della squadra. Ma questo lo dico con grande dispiacere, perché essendo un uomo di calcio mi dispiace, perché so che Walter Mazzarri ci ha messo di più del suo per poter far andare le cose, però quando si appiattisce così la cosa diventa difficile lavorare e ottenere dei risultati. Con Mancini, ti ripeto, si è risvegliata una situazione, e porto un esempio: quando siamo andati a Torino con la Juve, cioè sapevamo che la Juve era più forte, però avevamo una speranza di poter fare risultato. Primo tempo poteva finire 3-0 per la Juve, però secondo tempo dare l'impressione di vincere la partita negli ultimi tempi, credo che per i tifosi interisti sia stata una bella sensazione. Sì. Comunque, al di là dei punti, Pier, mi sembra che la freccina sia verso l'alto, cioè come diceva Risto, a Torino sì, una buona gara, col Genoa una buona gara, brutta partita con l'Empoli, certamente 2-3-4 passi indietro. Ieri sera passi il turno con la Sampdoria, magari anche con un paio di ragazzi, il calendario, quando è arrivato Mazzetti ha trovato Milan, Roma, Lazio, sì, Udinese, Genoa, insomma il calendario, Juve, credo che insomma riuscire ancora a essere con la speranza di poter fare una rincorsa, credo che sia una situazione positiva. Sì, non so se il terzo posto sia francamente possibile. Ma no, di certo nel calcio non c'è niente, c'è l'Europa League e il campionato, chi è all'Inter deve avere la speranza di fare un filotto per poter andare a cercare di fare un risultato, anche se sulla carta alla fine i valori stanno venendo fuori, Juve, Roma e Napoli sulla carta sono le più forti, poi Napoli ha perso qualche colpo e le altre squadre, tra l'altro la Sampdoria che nessuno pensava che Miaglio gli portasse lì, si è inserita, quindi bisogna stare allerta. Ieri bisogna anche dire che, come sottolinea un ascoltatore, l'Inter ha giocato per 80 minuti in 11 contro 10, a me è sembrata una prestazione discreta. Mm-hmm. È chiaro anche che poi una partita nella quale sei 0-0, anche se sei in 10 contro 11, puoi riuscire a tenere, quello che fai più fatica a fare è ripartire, infatti la Samp si è vista pochissimo davanti, ma dal punto di vista tattico puoi fare un 4-4-1 o un 4-3-2 senza soffrire, senza soffrire tantissimo. No, io vedo dei segnali sicuramente incoraggianti. Secondo me il segnale più incoraggiante è che i due nuovi arrivati sono entrati bene, sì, quindi Shaqiri per me è un giocatore che ha un livello tale che poi nel campionato italiano può fare molto bene. Jerry ci scrive che ha passato il turno anche la Fiorentina, lo sappiamo, sì, adesso ne parliamo con Marione Gomez. Tra l'altro Mario Gomez ha dato segni, tracce di sé, non c'era per inciso, sì. Sei sempre il solito, ti chiamerò cronaca. Beck, Icardi, per chiudere, si possono dire molte cose non tutte positive su sto ragazzotto, però è uno che la sbatte dentro, non male, per un trequartista avere uno così davanti. Prima parlavate di numeri, io credo che è un giocatore che come numeri è già sulla buona strada, ma ha ampi spazi di miglioramento, questo è un dato di fatto. Poi ha dalla parte e dalla sua alla giovane età, quindi mi aspetto molto e mi aspetto che anche lui faccia un salto come personalità che gli entri in testa, che è un giocatore importante per l'Inter e a livello di carisma e personalità deve fare salto di qualità, perché ha grandi numeri. Sì, a grandissimi numeri. Grazie Beck. Ciao Beck. Ciao, buon pomeriggio, un abbraccio. In bocca al lupo al Brescia, e citiamo il messaggio di Mario: Brescia come il Siena, fallito da retrocedere. c'è sempre poi il buonista di turno. C'è Carmelo che vorrebbe riportare Balotelli a Palermo, sarebbe certamente una bella storia romantica, Balotelli. Su questo non ci sono dubbi. Ci fanno notare che Mazzarri al primo mercato ha speso 20 milioni con Hernanes, se questo è vero. E poi c'è Antonio che dice che nonostante che Mazzarri al Napoli abbia ottenuto il secondo posto della Coppa Italia, gli è antipatico, perché è che ne so, parlatevi, cercate di risolverla. Non so, sì, De Luca, hai un'idea a proposito? Ti piaceva Mazzarri come allenatore, sì, del Napoli? Sì, piaceva. Lo trovavi simpatico, lo incontravi a Pozzuoli? Non lo trovava simpatico, ma la simpatia serve fino a un certo punto, perché uno mica deve fare il cabarettista, No, però una certa empatia, come dicevo, il furbacchino di Leonardo serve. Empatia, soprattutto dai risultati, Capello a Roma, non è che ti avesse empatia con l'ambiente, andava a cena lì con Baldini, Pizzicannella, San Lorenzo, con questo circolo di letterati, di artisti, non è che stesse simpatico Capello alla città, no? Non è che chiamava, però poi ha vinto e quindi la gente lo amava, insomma, dai, quindi adesso c'è questa voce rimbalzata da qualche parte, Capello che torna al Milan a fare non si sa bene che cosa, perché si prendono Sacchi e Capello e fanno i supervisori, non lo so, presidente alla Boniperti, che ne so io, Ferguson della situazione. Beh, insomma, stiamo parlando di stiamo guru, parlando, eh? Di poche idee ma confuse, te lo no, dico, ma siamo, no, secondo me stiamo parlando di tante idee, molto perché il Milan ha una storia piena di idee, di personaggi che possono dare una mano, bisogna amalgamarli e questa è la cosa più difficile, soprattutto bisogna tirar fuori i Danè, che è un concetto un po' più semplice. Allora, Borsa, poi facciamo Ciro e Giovanni? Cosa dici? Sì, facciamo un'azione. Stavo facendo un braccianza di uno che ce l'ha con Turrini. Ma come, ma a questo punto chiamiamo Turrini? Fatto già ieri. Già, allora chiamiamo oggi, non si può. Perché? Perché ce l'ha con Turrini? Ma che ne so, dice non chiamare questo ubriacone di Turrini. Dice sempre queste cose inutili come tutti i modenesi. Firmato Franco da Modena. Quindi forse è una forma di autoironia straordinaria. Salutiamo tutti i modenesi e anche tutti gli ubriaconi. Io, fra l'altro, appartengo alla categoria degli ubriaconi, non dei modenesi. Adesso c'è la borsa. Attenzione, perché parlerà Draghi nel pomeriggio, ho sentito. Borsa sì. Impazzita. Sicuramente sono grandi campioni che abbiamo qua nella squadra, che hanno portato la società, e adesso con loro speriamo andare avanti il meglio possibile. Tutti convocati. Richards centrale per Badel, il tocco su Mario Gomez, il tiro. Possibilità di caricare il destro, Mario Gomez in area di rigore, posizione regolare, rete, 3-0, doppietta per Mario Gomez. Doppietta per Super Mario dedicata ad Angela Merkel, la cancelliera. Ja, natürlich. Angela Merkel mit Matteo Renzi, saranno insieme, si incontrano. Tra poco avremo lo Zotti, spero, perché Davide ci ha chiesto di fargli lo Zotti, e quindi adesso proviamo a chiamarlo e facciamo intervenire quello vero. Invece che da Firenze che dicono? No, c'è Stefano che scrive: l'eccezione conferma la regola con riferimento al rigore regalato alla Fiorentina, squadra e società quella viola storicamente vessata dagli arbitri. Benissimo, tutto benissimo. Io mi limito a sottolineare non un buon arbitraggio di Valeri, 4.5 ad esempio sulla Gazzetta dello Sport, il rigore non c'era, con Antuono espulso, eccetera. Ciro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Salve, io volevo parlare di Pogba. Pogba. Opla. Sarebbe un grosso sbaglio venderlo. Tutti fanno il paragone con Zidane, con quando si è venduto Zidane, sì. Si è fatto un grosso affare rinnovando la squadra, ma in Italia facciamo sempre, andiamo a piccoli passi, quindi non pensando in grande, lì è stato un enorme sbaglio, perché se quale? Vendere Zidane? Sì, vendere Zidane, se pensate quella squadra lì, se rimaneva Zidane, cioè Neves, ho capito, però Ciro, se non vendevano Zidane non pigliavano Thuram, Buffon, Nedved, eccetera eccetera, cioè non, Ciro, dai, su. Il discorso è questo. No, per carità, capisco bene il punto di vista, però quello lì non è stato un errore, quella è stata una mossa, non dico geniale, ma insomma secondo me è vera una cosa che non mi ricordo chi lo diceva ieri, forse un ascoltatore o qualcuno, perché ormai sono bollito, però che bisogna evitare, secondo me, qualora si volesse vendere o comunque alla fine si decidesse di cedere Pogba, di fare mercato dopo, nel senso che sappiamo bene che quando le società, è successo per esempio al Napoli con Cavani un paio di anni fa, no? Quando le società hanno tanti soldi, non è che non, certo, si sanno le prendono per il collo, mondo, dai, esatto. Poi le prendono per il collo, no, ma poi quindi diciamo che la Juve dovrebbe secondo me lavorare a fari spenti sotto traccia per questa soluzione qui, e poi se ne ha 80 milioni Pogba lo vendi, non hai alternative se veramente c'è un'offerta poi, 80 Pierre, milioni cioè, tutti citano il caso Zidane eccetera eccetera, che può avere qualche analogia, però in quel caso, come in tutti i casi come questo, conta molto anche la volontà del giocatore. Zidane voleva andare via, Ronaldo voleva andare via, ok, il prezzo è giusto, lo cedi. Poi ti ricordi, Zidane diceva: no, certo, sono stufo di stare a Torino perché non c'è il mare, non c'è il mare. Voglio andare a Madrid. Certo. Beh, è chiaro. Giovanni dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a voi, ma quanto è bravo Pardo. Bravissimo. Ma quanto è bravo Pardo. Ironico. Mamma mia. Quando io ho sentito il gol del derby, mi ha fatto impazzire Pardo, Quello di Torino? Forse non è ironico. Torino, sì. Non so se è ironico. È ironico? No, ma al di là del gol che ha fatto Pirlo, sei stato straordinario nel raccontare la partita. Te lo dico. Guarda, te lo dico proprio tranquillamente, senza. Ma sei bravo. Come diceva il nostro caro Mosca. Sì. Ma come bravo Del Piero. Ma come bravo Paolo. Non confondiamo, va bene, dai. Assolutamente. No, nulla. Allora, io sono un ex arbitro, 20 anni di arbitro. Niente, approfitto proprio di queste polemiche che fanno sempre dopo ogni partita, ma perché? Cioè, io dico sempre, perché alimentare sempre la Roma, l'Inter e quant'altro? Ma che senso ha? Cioè, la Roma adesso, io ripeto, non mi spiace pure parlare, la Roma ha vinto con l'Empoli, l'abbiamo visto pure, un rigore inesistente e fallo da ultimo uomo del ragazzo di colore che gioca in mezzo, che non riesco a pronunciare il nome. E se lì buttava fuori, rimanevano in 10, perché comunque c'era la persona, c'era il suo compagno di squadra a destra per poter passare la palla. Ma sì, ma sono comunque oggetto di argomenti di discussione. Pier, c'è Noso al telefono, Noso. A tre minuti Noso. Andando su Skype. Noso, c'è Davide. Ciao, da Modena. Marco. Allora, c'è, ti Marco? Dico. Ci sei? Sì, eccomi qua. Ciao, come stai? Football. Senti, allora, ha scritto uno che dice che Turrini è un ubriacone, quindi abbiamo già dato mandato ai legali, ma dice soprattutto che i modenesi dicono tutte le stesse cose inutili. Poi arriva Davide e dice: Pardo, vuoi fare Nosotti? Ti prego. Gli ho detto: scusa, ma a sto punto gli chiamiamo Nosotti. Come stai? bene. No, non è vero, ci sono modenesi che dicono fregnaccio, come dico io, e altri. Cioè, altri seri. Sì, ma questo messaggio l'ha scritto uno di Modena, peraltro. Sì, appunto. Ci bene. Vogliamo parlare del Lambrusco che c'è a Modena, che è diverso dal Lambrusco che c'è in tutta Italia? È vero? Certo, è un bel Lambrusco di Sorbara, di Castelvetro. Lasciamo perdere adesso. Come lasciamo perdere? Abbiamo chiamato per parlare dell'alcolismo, cioè dell'alcolismo, del bere bene a Modena, no? No, o vuoi parlare del Milan? Ma il Lambrusco è un vino leggero, statico, è un vino per digerire il maiale. È conviviale, Senti, ma il Milan prende Osvaldo? Ma è vero? Questa serie dei bad boy, di Osvaldo, The Wild, può piacere perché può stuzzicare. Non tanto a Pipinzaghi, credo più che altro a Adriano Galliani, che sa inserirsi in queste situazioni, cogliere il meglio da queste situazioni che sembrano disperate. Sai, uno Osvaldo che ha il dente avvelenato vuol dimostrare che qualcuno non è stato capito, eccetera. Giocatore che sa giocare a pallone, attaccante moderno. E allora potresti mettere insieme entrambe le cose. Però, scusa, la domanda è: non è un po' schiavo, forse perché non ha alternative, di queste scommesse Galliani? Forse non ha alternative e deve inventarsi questa roba qui, nel senso che è vero quello che tu dici, è vero per Menesca, è stato un grande acquisto, è vero per Ibrahimovic, è stato un grande acquisto, però poi ci sono stati anche dei colpi ad effetto che, diciamo, non hanno avuto esattamente. Torres era un'altra scommessa ed è andata come è andata. Non si può fare un ragionamento invece un po' più di prospettiva al Milan? È impossibile dire ai tifosi: ragazzi, 3 anni calmi, ma facciamo una grande squadra, torneremo a vincere? È impensabile, tu che conosci bene l'ambiente? Sarebbe da fare, sarebbe auspicabile, ci vuole progettualità, ma questo credo che non manchi, ci vuole il denaro per farlo e la volontà di dire aspettiamo. Finora il Milan è stato quello che prendeva giocatori più pronti, fatti, che sui 25-26 anni per dire, e che ti dedicassero il meglio di se stessi per costruire un'epopea. Adesso, con i bilanci che ci sono, con la concorrenza che c'è, non lo puoi fare questo. E allora arrivano giocatori che hanno già 30 anni, arrivano giocatori forse che hanno dato il massimo. E d'altronde, se però ti dicono che fai una squadra con prestiti, cambio di prestiti e soltanto parametri zero, la fantasia è il... E comunque, cioè, ricordiamo dov'è che si vincono le partite: sulle fasce. Sulle fasce, anche laterali. Secondo me anche sul campo, devo dire. Le fasce laterali. Grazie Marco. Ciao Vecchio, grazie. Vi saluto, grazie. Un buon bicchiere di Lambrusco, la vita vi sorriderà. Adesso chiamiamo Turrini, dai, che sarà... No, è perfetto, Leo è perfetto. Ah, certo, il numero uno. Toccate, Leo, è numero uno. Si vede presto. Una bellissima anima. È una bella anima, no. Vabbè, ma tu adesso mi provochi. Fai un attimo il matto di Formigine, 30 secondi, poi la storia la racconto io, tu devi andare in onda. Fai il matto di Formigine. Non possa parlare così, perché sei una bella anima. Ecco, detto questo, volevo dire, già Ipponazze, ecco, voglio dire, lirici greci, inneggiava il vino resinoso, ecco, devo dire. Però, attenzione. Una bella anima. Ciao, grazie, molte proporzioni. Grazie. Saluto, ragazzi. Ciao. Pomeriggio, ciao. Diciamo al volo che questa qui è una delle cose conviviali che racconta il Noso, che praticamente a Formigine, che è il suo paese, vicino a Modena, c'è questo matto del paese che dice: è una bella anima, tutti quelli che passano. Ed è, insomma, non è una cosa che fa ridere in assoluto, ma detta dal Noso fa ridere. Adesso chiamiamo Turrini, tra l'altro le borse volano. Ah no, adesso ci sono le strade, le borse stanno volando, ha parlato Draghi. Parlato. Pum, Champions League. Lo sentiamo nel GR. Sì. C'è il traffico. classico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Luigi Ancona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dica. Molto velocemente, mi avete stimolato una domanda che io mi sto facendo da anni. Luce. Meno male che abbiamo stimolato solo una domanda, sì, perché... Prego. No, vabbè, mi avete stimolato quello, però è una domanda che io mi faccio da parecchio tempo. Stavate parlando del Brescia e della possibilità da parte del territorio di rifinanziare un progetto calcistico. Io però nel 2014 ancora mi domando cosa fa fare ad una persona che sta tanto bene, ha tanti soldini a casa, mettere dei soldi in una squadra di calcio, perderli puntualmente, perché il 90% accade sempre così, fare una bellissima figura brutta con il pubblico che se la prende con lui, ma perché non hai comprato quello, quell'altro, ma hai convinto. Nel 2014 ancora non l'ho capito, vi lascio e vi ringrazio. Mi hai convinto, secondo me è una chiave importante. Diciamo che il calcio grandi utili non li dà, anzi sono più gli esempi di patrimoni persi attraverso il calcio che purtroppo in Italia, e questa è una stortura. Dal punto di vista della visibilità sicuramente dà molto, dà tantissimo, quindi può essere un'arma importante poi per poter fare altre cose, per avere un ruolo a livello economico e sociale di un certo tipo e anche politico. Dal punto di vista però delle rotture di scatola hai detto bene, sicuramente devi avere un interesse, deve avere un tornaconto, e non è un caso secondo me che alcuni dei progetti più interessanti che ci sono dal punto di vista imprenditoriale negli ultimi anni siano nati in provincia. Penso ad esempio al Sassuolo, tanto per dire uno, ma anche il Carpi, sono progetti che non a caso non nascono nella grande città, un po' perché c'è un feeling, ma insomma chiaramente il presidente del Sassuolo sappiamo che è un tifoso del Milan, però sai, Sassuolo è più facile, magari è più semplice, ci sono meno rotture di scatole, quando ci sono le polemiche sono meno forti, certo. C'è questa componente, bravo l'ascoltatore, secondo me se uno vuole una vita tranquilla e serena sicuramente trovarsi i tifosi sotto casa magari perché ha perso una partita, ti ripeto, devi avere un tornaconto che sia economico, perché c'è anche chi col calcio cerca di fare affari, oppure che sia di un altro tipo. Il problema è che se fai gli affari economici poi magari c'hai i tifosi che ti contestano, perché Udine per esempio, appunto torniamo agli esempi di piazze, comunque anche a Udine c'è stato qualche mugno ultimamente, cioè, ma voglio dire, ha ragione secondo me l'ascoltatore, cioè è un business sicuramente che dà grande visibilità, ma è anche un business che ti mette in una condizione di potenzialmente di fatica, di confusione, di tensione, di che magari alcuni imprenditori non vogliono. Senti, stavamo provando a chiamare Leo Turrini ma non risponde. Grazie, se per caso l'ascolto si faccia sentire, perché volevamo discorso. Chiudere, sì, definitivamente dopo aver sentito il noso. Giulio Bari. Scusa, anche Ibra mi dicono giustamente, ecco, Juve pazzeria Cassano calciomercato.it, basta un metro in mezzo. E volevo dire al volo che ci fanno notare che anche Ibra fu una cessione da parte dell'Inter par condicio, esattamente come Zidane. Anche dalla cessione di Ibra sappiamo che l'Inter fece bene, che Ibra aveva mal di pancia, però con quella cessione, lì l'Inter ha vinto il triplete l'anno dopo, quindi chiaramente ogni tifoso vorrebbe tenere uno come Pogba in squadra, ma se lo devi vendere lo vendi strabene e ricompri bene, alla fine può diventare anche un affare. Giulio, buongiorno. Buongiorno, sono Giulio, il tifoso dell'Atletico Madrid da Bari. Ah, sì, ecco. Ma io ti conosco, tu sei un avvocato. Sì, infatti, ho avuto il piacere e la fortuna di incrociare Pardo in diversi voli internazionali. Dove sei? Prima che l'avventura sfumasse al 93esimo a Lisbona in un bagno di lacrime, però. Lo so. Però ho avuto poi la fortuna di essere al Bernabeu la settimana scorsa per la doppietta di Torres. Come lo vedi? Il ritorno del Nino. Sinceramente io non ero contentissimo dal punto di vista sentimentale, ero anche alla presentazione dove eravamo in 45.000, però devo riconoscere che a Madrid lui ha recuperato entusiasmo, tranquillità e una condizione fisica che con il preparatore atletico è impossibile, forse solo Cerci è riuscito a non guadagnarla. Sì, però... ieri non benissimo nell'1-0 di Barcellona, ha giocato un tempo, poi ha lasciato il posto a Mandzukic, alla fine ha vinto il Barça, gol di Messi alla fine, eccetera. Sì, è stata una partita prettamente difensiva, quindi lui ha sofferto tanto perché ha avuto pochi appoggi e poi una partita da 0-0, un rigore netto e obiettivamente una vittoria anche meritata da Barcellona. Adesso speriamo al ritorno di ribaltarla, ci sarò anche lì però... Valla a vedere una partita dell'Atletico, non esserti timido. No, ma lui sei abbonato, no? Sì, Sì, del resto Bari-Madrid è un classico della reazione. Senti, il 28 invece a Bari presentiamo questo film vero e proprio, insomma, sulla stagione dell'anno scorso, quindi mi raccomando, fatti trovare presente. No, la sala è piena, 600 persone, capito? Roba seria. Telegrafico, però soltanto un paio di appunti. Uno, che Mario Suarez non si muove perché Simeone l'ha blindato la settimana scorsa, visto che Thiago ha alcuni acciacchi e lui non è amante di sostituzioni durante il mercato di gennaio. Siqueira invece è stato fortunato perché con l'infortunio di Ansaldi adesso ha più spazio, altrimenti sarebbe stato ceduto. E poi un piccolo rammarico che avevo commentato tempo fa su Cerci, che purtroppo non è riuscito a dare il meglio di sé presentandosi in una condizione, diciamo, per essere gentili, approssimativa, quando è arrivato a Madrid. Lui era addirittura quasi 5 kg in sovrappeso, hanno provato in tutti i modi, con un programma specifico, a farlo recuperare, però un po' poi... Sono 40 anni, però... Non ha dato il meglio, ha dato quasi il peggio, nel senso che non si è proprio visto. Grazie Giulio, vedi che abbiamo gli ascoltatori, c'erano anche le notizie di mercato. No, ma Giulio è praticamente un opinionista. Se non troviamo Ricci, chiamiamo Giulio direttamente. Claudio, un po' Bergamo. Di parte, un po' colcionero. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per la convocazione. Sono un tifoso atalantino. Volevo far notare tre cose, sarò telegrafico. Vai. Atalanta Chievo. Sì. Errore arbitrare, due punti persi. Sì, è vero. Abbiamo giocato col Milan, non è intervenuto l'arbitro, abbiamo vinto. Abbiamo giocato a Firenze, grazie all'onestà di un tedesco e della poca capacità dell'arbitro. Sì. Siamo venuti via con le pive nel sacco. Mi dispiace che vi seguo sempre, che date poco spazio a noi tifosi piccoli. Hai ragione, ma non siamo solo tutto lo spazio che volete, se chiamate. Ma c'è, a parte che questo, da questo punto di vista, sinceramente, è il programma più democratico del mondo. Perché ho sentito con Antuano l'altro ieri. Appunto, però voglio dire, in generale, in assoluto, è vero, ragazzi. I programmi nazionali, per l'80% del tempo, parlano delle 5, 6, 7, 8 squadre, fate voi il numero, che sono tifate dall'80% della popolazione italiana. Però vedi, se chiamano, però se uno chiama, se chiamate, ma non solo se uno chiama, dico anche per Tiki Taka, dico anche per tutti i convocati. Noi siamo a caccia continua di protagonisti che dicono la loro. C'è stato qualche esempio sia in radio che in televisione di giocatori che si sono tra virgolette autoinvitati e li abbiamo accolti con grande gioia, quindi assolutamente, però hai ragione sul fatto che errore arbitrale a favore di una grande squadra o contro una grande squadra se ne parla per settimane e per mesi, l'errore nei confronti dell'Atalanta o del Chievo non se ne parla mai, questo è evidente. Allora, ci fermiamo per il GR. Io rimango un altro quarto d'ora. Dai, veramente? Sì, grande Pierre. Le borse stanno crollando invece. Veramente? No, più 0,70. Non so perché c'è questa cosa aperta. Io trovo, quando arrivo qua. Aspetta, c'ho tutto tipo. Mi faccio una cultura sulla borsa. Non me ne frega niente, però insomma. Saipem più 4,50. Tutti questi cose che si accendono, arancioni, gialli. Adesso, durante il GR, ti spiego. Saipem più 4,76. Più 4,69. Ma pensa di Achille? C'è chi non corre, non fa faville. Che tutto passa il tempo in tanti ospedali, ma non la ricordo tutta. Tutti convocati. Un supplementare con Pierluigi Pardo e con qualche ascoltatore. Con i salamini, con i salamoni di Pierluigi Pardo, con le mortadelle di Carlo Genta. E le mortadelle di Gente Pardo. Corrado da Bologna, a proposito di mortadella, no? Ma chiaro. Buongiorno. La Bologna. Buongiorno. Mi riallaccio a quello che ha detto poc'anzi il vostro ascoltatore che parlava dell'Atalanta e le squadrette. Bologna, io sono tifoso di Bologna da sempre, sembra che abbiamo rivisto la luce e vorrei avere vostre... Speriamo che non sia un treno. No, speriamo che non sia speriamo che non sia la solita tramvata a cui siamo abituati purtroppo da qualche anno a questa parte. Speriamo di non svegliarci all'improvviso, però sembrerebbe che finalmente la luce in fondo al tunnel si veda. Mi dicono grandi cose, cioè per quella che è la dimensione, poi magari non lo so, però insomma per quella che è la dimensione media dei club italiani mi sembra che qui la proprietà sia nettamente provvista di denari e di entusiasmo in questo momento. Quindi, insomma, Bologna è una piazza nella quale si può fare calcio con buoni numeri, è una città importante e quindi io penso che il progetto sia buono. Poi sai, la parte tecnica non sempre va in linea con il resto, no? Ma secondo me sarebbe davvero importante tornare subito in Serie A, Pier. Sì, ma sarebbe davvero io credo, importante tornare subito in Serie A. L'ascoltatore potrà tranquillamente scegliere la forma di scaramanzia preferita, però ecco, insomma, io credo che Bologna abbia buone possibilità di tornare. C'era quest'anno, anche se la Serie B è un campionato complicatissimo, forse il campionato più difficile in assoluto, perché non ti dà certezza, non ti dà certezza, veramente una roba da sfinimento. È bello, bellissimo, ma insomma ancora è una lunghissima maratona. Ci sono stati un po' di messaggi, sono arrivati sul discorso del che faceva l'ascoltatore degli imprenditori che non se la sentono, per esempio da Perugia ci dicono che Brunello Cucinelli, che insomma sappiamo in questo momento è uno degli stilisti al top, non vuole sentire parlare di Grifone perché i tifosi in passato l'hanno spaventato, che Buffon ha la passione per la Carrarese al di là dei soldi, insomma, però è evidente che è un business che può dare grande visibilità ma anche qualche problema. Ti ripeto, secondo me devi averci il tuo tornaconto, che sia di qualunque tipo, di ormai di imprenditori che buttano denaro a fondo perduto, non ce ne sono più. Ma sarebbe anche sbagliato, insomma, sinceramente. Giorgio Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Come va? Allora, volevo fare un discorso generale, una cosa veloce, cerco di essere il più rapido possibile, perché secondo me nel calcio ci andrebbe una volta per tutte il coraggio di cambiare. Cioè, ci sono stati due cambiamenti che hanno praticamente rivoluzionato. Uno è stato il togliere il passaggio indietro al portiere. E già lì è subentrato il pressing, è un altro modo. Io andavo a vedere le partite anni fa, quando c'era il passaggio indietro, era una noia mortale. Tremendo, perché non c'era il pressing. Seconda cosa, i tre punti che hanno, mentre prima un pareggio era una mezza vittoria, adesso è una mezza sconfitta. Secondo me con un po' di cambiamenti nelle regole, cioè per intanto non dico eliminare il rigore, il calcio di rigore, ma quasi toglierlo, perché come diceva Platini, fai un gol, come diceva Platini, quando nel calcio tu fai un gol hai già quasi pareggiato. Ora, dare un calcio di rigore non è come nel basket, che fai 70 punti. Voglio dire, il rigore deve essere l'espressione massima, proprio se uno ammazza 10 persone lo condanna a morte, altrimenti gli do 10 anni, 2 anni, gli darò un calcio dal limite, gli darò un'altra punizione. Questo è a grandi linee, cioè, sto cercando di parlare. Sì, di rigore, diciamo, meno insomma, per essere rigore, ma questo è anche un modo di sentire in realtà condiviso anche da molti arbitri e da molti dei tuoi lavori, cioè che il rigore deve essere una roba pesante, deve avere una sua motivazione forte, non si possono dare rigori con tanta facilità. Ma su questo posso anche essere d'accordo in generale sull'abolizione o comunque la limitazione dei rigori, feroce dei rigori, non lo so. Io non sono così d'accordo, sono. Però Fabrizio Pesaro, buongiorno, dica. Pronto? Dica? Sì, dica, io volevo agganciarmi al... Scusate, Ulisse ci scrive, certo, poi lasciamo una sola porta, sempre a proposito di modifiche. No, portiere volante? Scusa, non volevo interrompere. Portiere volante, dimmi. Volevo riagganciarmi al discorso Osvaldo. Sì. Sia per dire perché che l'hai visto? Sono sempre più convinto che il mondo del calcio abbia salvato molte persone che se non fossero brave a giocare a pallone non si sa che fine avrebbero fatto. E poi per dire che se il calcio fosse veramente uno sport professionistico, un personaggio come Osvaldo non dovrebbe più trovare una squadra, perché un calciatore, un professionista che si comporta in questo modo, che sparisce e non si allena più, non fa più niente, non dovrebbe essere isolato da tutto quello che riguarda il mondo del calcio, non trovare continuamente squadre che lui gli pagano dei bei stipendi e d'altra parte lui se ne frega di tutto. Sì, e d'altra parte Fabrizio, Osvaldo è accostato in queste ore al Milan e alla Juventus, quindi non esattamente a due club di seconda fascia. No, anch'io ho trovato molto strano, cioè, ne abbiamo visti di tutti i colori negli anni, comportamenti bizzarri, fuori dalle regole, eccetera, eccetera. Però sinceramente quello di darsi alla macchia mi sembra il peccato originale, no, per un professionista, Pier. Sì, ma credo che sia in qualche modo un darsi alla macchia quasi concordato con la società. Cioè, adesso sinceramente l'altro giorno Mancini dice in questa intervista: spero che trovi una soluzione che vada bene per lui. Cioè, è una storia finita, è una storia chiusa, quindi insomma, a parte che pare adesso sia la piratina, ma comunque insomma è una storia finita malissimo. finita con un diverbio molto pesante, da quello che mi risulta. E però insomma adesso chiaramente a gennaio, insomma, magari poi fosse successo a ottobre o a novembre, ci sarebbe stato del tempo per poter provare a ricucire. In questo momento col mercato aperto mi sembra che sia tutto, insomma, scritto, tutto scritto, esatto. Senti Pier, ci vediamo domani? Sì. Adesso c'è Giovanni Bruno, però sì. lo saluto, anzi salutiamolo subito insieme e poi ti lascio andare, faccio sentire una copertina. Non è bello e me ne vado, arriva lui, sembra che no, invece lo saluto. Dove... direttore, come va? Buon pomeriggio, come stai? Senti, viva la stragrande. Io sono fra quelli posso dire che ho sciato con Giovanni Bruno è appena un paio di decimi di secondo dietro a tomba, sì, ma proprio sì, ma, lui sciava e tu che facevi? No, io cercavo di salvare i crociati, però insomma bellissimo. Poi ha dei figli anche sportivi, guarda, veramente è umiliante, è bello sciare con loro, ma è umiliante, perché capisci proprio, dici, ma siamo lo stesso. L'effetto successivo era quello meraviglioso di fare, come si dice in gergo, la forchetta a centrocampo. Chiaro. Grandi mangiate a rifugio, quelli eravamo tieni sotto al tavolo. Beh, ma del resto si dice rifugio, ci sarà un motivo, è proprio un rifugio. Ciao direttore. Direttore, un attimo. Sì. Faccio sentire una cosa. Bene, con lo stesso spirito annuncio che assieme al CONI saremo a fianco perché da qui al settembre del 2015 l'Italia presenti la propria candidatura ai Giochi Olimpici del 2024. Di forza dell'Italia è l'Italia. 100 anni di Comitato Olimpico, siamo sesti nel medagliere di sempre, nei primi 10 da molte manifestazioni olimpiche, eccellenze in tante discipline sportive, anche le nostre criticità, grande reputazione, membri del CIO che da sempre fanno parte di questa famiglia, punti di debolezza l'Italia, con tutto quello che sono ovviamente le problematiche che conosciamo, che ci auguriamo che più prima che poi bisogna lasciare alle spalle e che quindi non devono caricare di ulteriori, diciamo, complessità quello che è una candidatura molto molto seria, molto rispettata, ma che non deve avere soprattutto internamente, io lo chiamo fuoco amico, ulteriori problemi. Ieri questo incontro a Davos tra Malagò, presidente del CONI, e Thomas Bach, presidente del CIO. Malagò dice c'è grande empatia tra Bach e Renzi, l'entourage di Bach ha definito l'incontro very impressive. Si è parlato di un impegno chiaro e forte del primo ministro italiano che è diventato ancora più evidente. Renzi è consapevole delle opportunità offerte alle città candidate, che però sono due, Roma e Boston. Giovanni Bruno, direttore di Sky a casa televisiva delle Olimpiadi, no? L'abbiamo già salutato prima, ma cosa vuol dire questo incontro secondo te? Davvero un passo avanti o siamo alle formalità di rito? È un passo avanti tra le formalità di rito, sì. Cioè, è indubbio che è un discorso estremamente positivo per quanto riguarda la candidatura di Roma, è indubbio che si sono esposte soltanto due città, cioè, ovvero sia Roma e Boston. E questo è inevitabile. E il passaggio di Renzi su Bach è secondo me positivo perché Bach, che è presidente del CIO, non dimentichiamolo, è anche un grandissimo sportivo perché viene dalla scherma, è stato medagliato della scherma e via di seguito, ha apprezzato non poco le grandi conoscenze che ha Renzi, non so se ha studiato un mezz'ora prima Wikipedia olimpico o cose di questo genere, però insomma ha apprezzato molto questa passione sportiva da parte del nostro primo ministro. Questo però diciamo, la paura di Bach, perché ha voluto forse incontrare Malagò prima e poi dopo Renzi, perché secondo me veniva sempre dalla cosa scottante, diciamo, del passato riguardante un altro primo ministro, ovvero sia Monti, e sì. Quindi questo era, diciamo, forse una tranquillità da parte del presidente del CIO di avere una candidata su carta molto forte, molto di impatto, una candidata come Roma che è stata già olimpica nel 1960, una delle più belle Olimpiadi di seguito. Quindi questa è una certezza, anche perché diciamo con Roma possono partire dietro delle altre candidature per contrastare Roma a livello europeo, mentre a livello intercontinentale, in questo caso americano, c'è una candidatura molto molto forte che è quella di Boston, molto organizzati, vengono da una situazione estremamente positiva. La parte negativa di Boston è data proprio dalla cittadinanza di Boston, ecco, dai cittadini di Boston, che forse un po' con la puzza sotto al naso non vorrebbero troppi turisti a giocare, diciamo, tra le strade bostoniane, ecco, questo mentre, un po' il concetto. Mentre, direttore, io voglio essere sincero fino in fondo, ma lo sono sempre stato su questo argomento. A me vengono un po' i brividi a pensare alle Olimpiadi a Roma, cioè sarebbe meraviglioso, ma a me vengono i brividi, ma proprio per quello che ha detto Renzi nell'audio di repertorio che abbiamo fatto sentire, punti di debolezza, siamo in Italia, e quindi a me i brividi vengono, e a me sembra un gioco d'azzardo. Verissimo, anche perché noi siamo, tra poco manderemo in onda come Sky una fiction molto bella, molto importante, riguardante quegli anni un pochino di Tangentopoli, che tutti quanti ricordiamo come quel famoso vaso che viene rovesciato, no, che esplode. Però da questo punto quel vaso è stato ricostituito in tutte le sue parti, perché ogni giorno noi apriamo i quotidiani o sentiamo voi o sentiamo tutto quanto, diciamo, il nostro telegiornale, via di seguito è un continuo di mazzetti di qua, mazzetti di là, perché siamo noi purtroppo, siamo facilmente corruttibili, e quindi questo è una cosa che fa molto male. Nello stesso tempo siamo sempre noi nella grande situazione di confusione che possiamo avere, questo è una cosa. Dall'altra parte io però non voglio rompere, da sportivo non vedo l'ora, ecco, se io devo fare un concetto da italiano sono preoccupato, da italiano sportivo sono affascinato dall'idea che i miei figli possano assistere a un'Olimpiade che io posso vedere da una panchina, perché penso che avrò una certa età, mi divertirò con gli amici a vederle in televisione, ma nello stesso tempo è un fascino, un sogno, è quello che l'obiettivo di tanti sportivi vogliono vedere, e secondo me questo può essere un effetto assolutamente benefico. Però hai perfettamente ragione, io sono terrorizzato da un'altra questione, vivendo a Milano sai perfettamente che cosa ci sarà tra poco a Milano, e quando passo sull'autostrada per andare verso Torino o verso i posti di sci, ecco, trovi che, oddio santo, che quando arriverà qua qualcosa stiamo ancora con i muratori sopra le impalcature. Sì, come è già successo, ecco. Peraltro non è che sarebbe qualcosa di nuovo, l'abbiamo già vista questa, Ecco, l'abbiamo già vista. Quello mi preoccupa, come mi preoccupa fare un passo indietro e vedere il discorso del 90, come mi preoccupa un passo indietro e vedere anche il concetto che di quello che abbiamo fatto con mondiali di nuoto, polemiche e contropolemiche. Poi è andato tutto benissimo, ci mancherebbe altro, è stato tutto magnifico. Io dico che secondo me uno dei punti di forza è stato comunque l'organizzazione di Torino, anche se non era il caso di preparare quella benedetta pista messa lì, oppure se il villaggio olimpico, pista di slittino, oppure villaggio olimpico adesso in preda alle ragnatele o alle abusi, non lo so, però l'immagine che uscita fuori una Torino diversa, e quello è stato un discorso positivo, ha portato tanti turisti, tante cose, e le gare sono state ben organizzate, questo è fuori discussione. Poi, chiaro, sentiamo dire low cost, sentiamo dire tante parole, ma il low cost, anche Londra era partito con low cost e ha sforato non poco, però c'è stato un grandissimo rientro dal punto di vista architettonico, e se uno va adesso al Parco Olimpico non trova più determinate cattedrali nel deserto, trova una situazione di un bellissimo parco, e quello che era stato fatto è stato smontato, impacchettato e mandato in alcune località dove avevano carenze di impianti. Vedi il campo di basket in Scozia, vedi la piscina della pallanuoto, è stata smontata e è stata riposta da un'altra parte. Io sono si tratta preoccupato di capire se potremmo essere capaci anche noi. Secondo me si può fare, si può fare, vuole una situazione estremamente forte. I nomi che si fanno, trovo che sia uno dei nomi molto molto forte di impatto, di immagine eccetera, che è Luca Cordero di Montezemolo come comitato promotore, ma il promotore a livello organizzativo ben venga un uomo come l'ex amministratore delegato di Luxotti, che non ho sentito parlare soltanto gran bene, quindi un vero manager può veramente controllare il tutto. Il resto d'immagine può essere affidato a tanti sportivi, anche se, certo, se sai, che Londra, sai, direttore, scusami, no, volevo dirti, molti italiani non si rapportano a Londra quando sentono parlare di Olimpiadi a Roma, ma si rapportano alla Grecia, perché a me arrivano i messaggi e mi dicono: ah beh, non come Londra ma come Atene, le Olimpiadi, che sono il massimo della vita sportiva, e su questo siamo tutti d'accordo, la più bella manifestazione possibile, in Grecia furono la pietra tombale della, o meglio la porta d'ingresso di una crisi senza fine. Verissimo, verissimo. Io spero che questo non sia così. Cioè, premesso che dobbiamo ancora presentare una candidatura, premesso che dobbiamo andare avanti, premesso che se realmente entrano in lizza città come Berlino e Parigi sono dolori per noi, e quindi da questo punto di vista, diciamo, bisogna aspettare. La realtà è che è un'opportunità, noi le cose poi alla fine le abbiamo sempre fatte, in certi casi così, così. Su Roma io sono preoccupato su una questione, su Roma sono preoccupato su tutto un certo gioco di logistiche che sono, sì, che sono sbagliate, e anche quello che sta uscendo fuori, che sono, come si è detto, una decentralizzazione delle gare, cioè portare in altre città alcune gare o alcuni tornei immediatamente. Io non ho mai visto, tutti hanno alzato la mano, perché alzano la mano? Ce la siamo fatta perché gli fa piacere avere il pubblico, perché gli fa piacere assistere alle gare? Secondo me no, gli fa piacere avere gli appalti, certo, gli fa piacere avere dei soldi che girano per mettere a posto determinate cose, certo, certo. Che non è, vuol dire solo l'impianto, perché se l'impianto viene studiato da chi sa fare gli impianti, vi posso portare un elenco ben preciso che le migliori aziende, e forse pochi lo sanno, che realizzano i migliori impianti sono tutte italiane. Sì, però siamo anche in un paese in cui se un club vuol fare uno stadio di proprietà, apriti cielo, ci vuole un millennio. Se un imprenditore Mamma privato mia. Come Giorgio Armani dice: con i miei soldi sistemo il Palalido è a due passi di qui ed è un enorme buco con uno scheletro di tribuna. Quindi siamo in questo paese, eh? Sì, sì, sì, sì, che per avere un permesso per fare una cosa passano anni. No, no, ma su questo sono terrorizzato. Ecco, questo è il mio terrore. Il mio terrore si chiama appalti, il mio terrore si chiama traffico romano, il mio terrore si chiama vediamo che piano urbanistico c'è da fare, il mio terrore si chiama anche l'educazione nostra, sia sportiva che civica. Perché la realtà, se uno fa una linea, la famosa Olympic Line, cioè una linea dove passano i mezzi accreditati, non so quanti poi si metteranno in questa Olympic Line il giorno che verrà assegnata a Roma. Sarà tutta Roma che si butta sull'Olympic Line. Non lo so, c'ho questa mia paura. Sì, detto questo, facciamo il tifo per Roma. Grazie, direttore. Quello lo spero sempre, ripeto, da sportivo spero sempre, non bruciamo i sogni. E io come te, grazie. Grazie a te, arrivederci. Ciao. Ciao Giovanni Bruno, direttore di Sky Sport. Allora, Marcello da Bergamo, Alfonso da Padova, aspettatemi un attimo, vi faccio sentire le voci della vigilia di Coppa Italia, Napoli, Atalanta, poi la borsa e poi parliamo. 800 24 00 24, il numero verde. Noi siamo campioni della Coppa Italia e chiaramente dobbiamo fare il meglio. Credo che ho spiegato anche prima che dobbiamo sfruttare la rossa, c'ho qualche giocatore che non ha giocato deve giocare perché sarà importante per il resto del campionato, ma noi affrontiamo la partita con l'idea di vincere sicuro 100%. Andiamo a giocare a Napoli contro ovviamente una delle squadre più forti del campionato, che è anche in un buon momento, ma io credo che l'Udinese in una partita secca abbia dimostrato che può mettere in difficoltà chiunque, quindi noi andiamo lì per giocarcela e cercare di passare il turno, sapendo anche che ovviamente sarà una partita molto difficile, ma possiamo secondo me metterli in difficoltà. Tutti convocati. E riprendiamo proprio i convocati. Marcello da Bergamo, Alfonso da Padova. 800 24 00 24, c'è chi ricorda che Olimpiadi, storie olimpiche, anche su Torino, l'organizzazione di Torino, ci sono gli artigiani che devono ancora essere pagati. Non abbiamo un grande passato per quanto riguarda organizzazioni di grandi manifestazioni, tutt'altro. 800 24 00 24, dicevo. Marcello, buongiorno. Buongiorno, grazie intanto di essere convocato. Grazie a lei. Questa è una trasmissione favolosa perché attraverso l'intervento degli ascoltatori imparo tante cose. Grazie. Volevo fare due piccole proposte. Sì. Una riguarda l'eccesso di calci di rigore o calci di rigore ignorati. Ma perché non si torna all'applicazione del regolamento letterale, cioè che quando è fallo è rigore, quando è ostruzione è calcio a due in area. Perché molto spesso questi calci di rigori che vengono dati sono delle semplici ostruzioni, calcio a due in area, certo, e ci sono molte più probabilità di un calcio di punizione da fuori, molto meno del rigore, ma è rispettato il regolamento. Ma questa può essere un'idea, può essere una proposta, ma il calcio due in area non era, cioè, a me non è un'istituzione che piaccia granché, perché non è né carne né pesce, se è fallo è rigore, se secondo il regolamento vigente, altrimenti si lascia giocare, quindi io la vedrei in maniera un po' più semplice. Non sono d'accordo sull'abolizione dei calci di rigore, perché sarebbe una cosa contro lo spirito del calcio. Poi per il resto, secondo me, il regolamento tutto sommato è stato un po' complicato, soprattutto sulla vicenda del fuorigioco, e siamo d'accordo, però il regolamento lo lascerei stare. Quello che vorrei aggiungere è che è molto difficile la valutazione rispetto al passato, molto difficile la valutazione dei singoli episodi, anche perché si gioca con un atletismo e si gioca con una velocità che sono molto molto superiore rispetto a quanto capitava anche soltanto 15-20 anni fa. Alfonso Padova, buongiorno. Salve a tutti, grazie per essere stato convocato e complimenti ancora per la trasmissione bellissima. Volevo toccare un attimo l'argomento calciomercato, mi pare che finisca entro il mese di gennaio. In particolare volevo mandare un consiglio a Raiola e a Balotelli, perché adesso non so Balotelli come sia, se sia ancora oggetto di mercato, cosa vuol fare, se vuol restare in Inghilterra, però secondo me lui deve accettare di tornare in Italia e trovare una squadra, una media squadra di Serie A o anche di Serie B per ricominciare a giocare da giocatore vero, insomma. Ecco, secondo me deve un attimo ridursi gli stipendi, perché secondo me il talento che ha lui è indiscutibile, quindi se vuole ricominciare a, diciamo, una nuova carriera e magari risperare di essere convocato in nazionale, io direi consiglierei ripartire di tornare dalle origini. Allora facciamo facciamo così, parliamone. Sarei entusiasta, però sono un laziale, noi laziali siamo strani, tanti non la pensano così, io invece già mi immagino Anderson, Candreva e Balotelli, sarà Lazio che farebbe, sarebbe il migliore attacco del campionato. Chi sta parlando? Io sarebbe felice, solamente io mi auguro che lo dito ci penserebbe lui a portarlo, magari me lo comprerebbe, magari io sarebbe felice, ma i soldi a Balotelli magari. Chi sta parlando? Balotelli sarebbe un bel colpo per la Lazio, secondo me, perché Balotelli è un bel giocatore, è solo bisogna vedere se è vero, se è una parola detta così, perché poi noi ci illudiamo subito, perché è normale che un giocatore del genere venga in una squadra che già secondo me è competitiva e potrebbe fare il salto di qualità in questa Lazio. Magari il gestore farebbe sto passo, sarei entusiasta, io perlomeno sarei entusiasta e porterebbe pure qualche cosa in più nel marketing della Lazio e darebbe più immagine alla Lazio, che oggi se ne parla. Vabbè, qualcuno Balotelli lo vuole ancora. Xavier Iacobelli, direttore di calciomercato.com, buongiorno direttore. Buongiorno a voi, buongiorno agli amici ascoltatori. Osvaldo, Balotelli, Gilardino, Borriello, Destro, tutti li vogliono e nessuno se li piglia. Ma è un classico, il valzer delle punte dell'ultima settimana di mercato, o comunque degli ultimi giorni della sessione invernale, anche perché i nomi che tu hai snocciolato cercano a loro volta una sistemazione, e io sono convinto che la troveranno, sebbene non sembri apparentemente così facile, ma è un gioco, è un effetto domino, basterà che si sposti una pedina, nella fattispecie ad esempio Gilardino oppure Zazza, e poi ci saranno ripercussioni a catena. Senti, ma tu Balotelli sei d'accordo con l'ascoltatore, diceva Balotelli dovrebbe ripartire dal basso, dalle origini, tagliarsi lo stipendio, guarda, magari guarda, fare la via crucis, una via crucis calcistica. Allora, il problema è soltanto è solo di Balotelli. Se lui ricomincia a fare bene ciò che sa fare meglio, cioè giocare a calcio, tutto il resto viene di conseguenza. Il problema è che a 24 anni tocca a lui prendere coscienza del fatto che non può continuare a sprecare tempo, come purtroppo ha fatto per tutta una serie di motivazioni che conosciamo molto bene. Ma dalla semifinale con la Germania all'Europeo 2012 in poi noi abbiamo perso le sue tracce. Osvaldo è un altro che ha qualche problemino. Osvaldo sarebbe la decima squadra in 10 stagioni. Qualcosa vorrà però pur dire? Vuol dire che questo giocatore ricchissimo di talento, e secondo me è uno dei migliori attaccanti del nostro calcio, non può continuare a dilapidarlo in questo modo, perché se noi ci voltiamo indietro e ripercorriamo soltanto le ultime tappe dei suoi spostamenti, notiamo come ci siano stati problemi in ogni squadra in cui lui abbia recentemente militato, altrimenti sarebbe rimasto per sempre o comunque avrebbe ottenuto un contratto pluriennale. In questo momento Osvaldo è l'immagine della precarietà dell'attaccante. Il suo cartellino appartiene al Southampton, è in prestito all'Inter e adesso ovviamente chiunque lo desideri deve trattare con gli inglesi. Direttore, è comparsa oggi questa voce Cassano alla Juventus. Prima c'era qui Pardo che non ha smentito e qualcosa vorrà pur dire dicendo: ma nella vita tutto può succedere. Detto da Pierluigi Pardo è una traccia di mercato molto significativa, considerati i rapporti intercorrenti tra lo stesso Pierluigi e Cassano. Ma io credo che sino il mercato in questi anni mi ha insegnato a non stupirmi mai di nulla, esatto, sino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno. Rammenterai perfettamente, ad esempio, il caso più eclatante della sessione estiva che ci siamo lasciati alle spalle, cioè Bonaventura. Sì. Sembrava dovesse venire all'Inter e poi finì al Milan, perché poi ci fu la questione Biabiani, che si registrò a 4 ore dalla chiusura della sessione estiva. Io non mi stupisco di nulla e osservo le mosse della Juventus. Credo che la priorità bianconera sia quella di rescindere se possibile il contratto Giovinco, con Giovinco, sì, in modo tale da risparmiare circa 2 milioni di euro alla luce dell'accordo raggiunto dall'attaccante con il Toronto, e a quel punto si impone l'arrivo di un attaccante. Zaza sarebbe l'ideale, ma il Sassuolo, giustamente, raccolta dai 7 gol segnati in 14 partite dall'attaccante della nazionale, recalcitra, tant'è vero che si è inserito nella corsa a Gilardino, proprio perché tutto può succedere. Ferrero ieri ha detto una cosa su Eto'o, a modo suo naturalmente, questa. Mi deve dire una cosa, quanto manca per Eto'o? Te posso dire una cosa? Cosa manca? Quanto manca per Eto'o alla Samp? Basta fa Eto'o, faccia o te. Stiamo a posto. Lui sta su un aereo, solo metterlo in moto. Però è una persona seria, ha una grande voglia di venire a giocare in Sampdoria e siamo alle ultime cose, speriamo che Dio ce la mandi buona. Capito, direttore? Guarda, ieri sera ero a Rai Sport, a Zona 11, è intervenuto in diretta Carlo Osti dopo la partita della Samp a San Siro con l'Inter, ed è stato secondo me molto equilibrato, come sempre il direttore sportivo Toriano ha detto: noi abbiamo l'accordo con il giocatore, e l'impressione che ho ricavato incontrando sia lui sia i suoi agenti prima a Londra e poi a Parigi è che tu voglia venire alla Samp. Adesso però bisogna mettersi d'accordo con l'Everton, quindi sono molto prudente, cito testualmente la dichiarazione di Carlo Osti, che è un signore che non parla mai a vanvera. Io credo che ci sia un tentativo in extremis, in tackle scivolato, se possibile, dei Cosmos, perché non hanno mai smesso di pensare a Eto'o, nonostante l'accordo raggiunto con la Samp, e credo che la partita si giochi sull'asse Genova-New York, staremo a vedere, però in questo momento è molto più vicino alla Samp che all'Everton. Ma dipende fondamentalmente dal club inglese anche. Direttore, ti posso chiedere un attimo di pazienza e poi chiudiamo con l'ultimo grande caso, che è quello che, insomma, che arriva da Firenze, traffico. Tutti convocati. Nuova corsa. Vieni a scoprirla sabato e domenica. Dunque torniamo con Severi Jacobelli, direttore di calciomercato.com, per l'ultimo caso, il caso più eclatante di questi giorni, che è quello di Cuadrado, una Fiorentina che non vuole mollarlo, di una contropartita che non è quella adeguata da parte del Chelsea. Secondo te si muove, direttore? Ma hai detto bene. La Fiorentina in questo momento non vuole sentire ragione circa un trasferimento di Cuadrado se il Chelsea non mette sul piatto 35 milioni di euro, cioè la clausola rescissoria del contratto del colombiano che è stato rinnovato in estate. Quindi è evidente che se al Chelsea interessa davvero, e interessa, ma alle condizioni del Chelsea, e quindi la Fiorentina giustamente non ci sta, non resta che presentare una proposta adeguata, altrimenti Cuadrado, almeno sino alla fine del campionato, resta a Firenze. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. Buon pomeriggio da calciomercato.com. Ciao Xavier Iacobelli, grazie davvero. Daniele da Roma, Luigi a Pavia, torniamo ai convocati. 800240024, ci siete? Daniele? Presente. Eccoci. Ciao, complimenti per la tua attenzione innanzitutto. Riguardo alle Olimpiadi, io sono di quelli a favore, nonostante sia un semplice cittadino romano che sicuramente avrà più, soprattutto in quella fase, problemi che altro, soprattutto di movimento logistici. Però va accettato un discorso che se entriamo nell'ottica che non si può non possiamo farla perché abbiamo paura che si mangiano tutto quanto, non si farà più niente, non costruiamo più neanche le scuole. Non so, questo è un grande, lui, Daniele, questo è un grande dilemma. Questo è un grande dilemma, però va controllato meglio con l'attenzione che c'è adesso, perché sicuramente adesso, dopo quello che è successo recentemente a Milano, ma siamo nelle condizioni di, sono nel 2024, è vero, però se si tratta di un'Olimpiade del 2024, non dico che è domani, ma forse dopodomani, siamo nelle però condizioni in un paese. Questo non lo so, ma so una cosa, che comunque Roma si dovrà organizzare perché l'anno dopo avrà il giubileo e quindi comunque molte infrastrutture dovranno essere fatte per affrontare milioni e milioni di persone che verranno, quindi forse una volta tanto potremmo prendere con due piccioni con una fava, poi sicuramente organizzando, mettendo in mezzo anche altre città, magari si riesce a diluire come dire, l'impegno per una gola, forse economia di scala, quello che si fa, che si dovrebbe fare per il giubileo, si anticipa, si usa anche. Sì, l'anno dopo comunque va affrontato, sono 12 mesi dopo, questo vorrà dire che comunque delle attività andranno fatte e molte cose andranno comunque fatte, forse una volta riusciamo appunto a risparmiare qualcosina, perché comunque delle cose andranno fatte. Tu sei convinto di vedere presto nascere lo stadio di proprietà della Roma firmato da Pallotta? Convinto no, però vedo che c'è molta serietà e necessità di far muovere qualcosa. Poi questo è il classico caso in cui un imprenditore privato decide con i suoi vantaggi evidentemente di investire in una città in Italia, parliamo in questo caso comunque dell'Italia, secondo me bisogna dargli tutte le possibilità per poterlo fare serenamente. Certo, non bisogna deturpare la città piuttosto che parchi pubblici, ma chi abita in quelle zone sa benissimo che lì di parchi pubblici è veramente poca roba. Poi le cose vanno fatte bene, senza ombra di dubbio, ma parliamo di molti soldi che vengono investiti. Ci lamentiamo che gli investitori non vengono in Italia a investire, quando ce l'abbiamo cerchiamo di dargli un po' di spazio, insomma. Tutto qui. Sì. Quello potrebbe essere un'ulteriore cosa che forse potrebbe aiutare anche per le Olimpiadi, forse. Sì, e quella potrebbe essere anche una cartina al tornasole per capire come, quando, in quanto tempo è possibile costruire un impianto, ripeto, con capitali privati in questo caso, in una città italiana. Luigi Pavia, buongiorno. Buongiorno Genta. Dica. Dunque, capitolo Pogba. Io ritengo che Pogba sia un buon giocatore, che abbia una visione di gioco buona, che abbia notevole sicurezza, però ricordiamoci che gioca nel campionato italiano, nel campionato italiano di questi ultimi anni, e che non giocava al Manchester, e probabilmente c'era un motivo anche tecnico perché non giocasse a Manchester. E le cifre che sento girare attorno a questo giocatore mi sembrano esagerate un tantino. Ma se parlano di 100 milioni, sono d'accordo. Cuadrado. Sì, pensando a quanto vale Cuadrado, 35, io non dimentico mai che in estate David Luiz fu pagato 60, quindi possiamo avere diversi termini di paragone. Certamente Pogba, ma questo non lo dico io, lo dice tutto il mondo del calcio, è la prossima grande cosa del calcio mondiale, se non lo è già. Non sono così convinto. Beh, insomma, è stato pagato Bale 100 milioni. Sì, Bale 100 milioni. Si tratta di mettersi d'accordo, cioè queste quotazioni le fa il mercato, non le facciamo né io né lei né nemmeno Pogba, sono quotazioni che vengono prodotte dal mercato, quindi se arriva lo United e dice 80 per Pogba, secondo me la Juve lo impacchetta e lo rispedisce da dove è venuto guadagnando una plusvalenza mostruosa. Prima di Enrico da Parma, sentiamo, mentre c'è un ascoltatore che mi scrive se Cassano va alla Juve, io juventino da 42 anni e ne ho 45, mi autosospendo da tifoso bianconero e tifo per la squadra del mio paese, e cioè Dinosotti, e cioè il Sassuolo, traduco io. Sentiamo che cosa ha detto Llorente a Sky per sulla corsa scudetto. Sappiamo che la Roma non è che va a mollare, sappiamo che è una squadra forte e che vuole vincere il campionato, no? Allora questo sicuramente fa che noi non possiamo mollare niente, e dobbiamo continuare a lavorare forte per giocare ogni partita al massimo livello e dimostrare che abbiamo quella voglia di vincere ancora, no? E vediamo se la Roma va a mollare oppure no. Ragazzi, abbiamo 2 minuti e mezzo. Enrico da Parma, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Ho voluto chiamare, sì, no, perché volevo intervenire su quanto aveva detto il direttore, mi sembra Iacobelli. Sì. Su Osvaldo, stiamo parlando di Osvaldo e Balotelli, cioè sinceramente dire che Osvaldo è uno dei migliori talenti, se non il migliore talento che abbiamo in Italia, cioè, mi fa veramente sorridere. Io sono juventino e le dico soltanto che da profano, da semplice tifoso di cuore, perché sono sempre stato juventino, quando era arrivato la Juventus io avevo molti dubbi e molti miei amici no, e alla fine ho avuto ragione io. Per me sono giocatori sia Balotelli che Osvaldo che fanno la differenza quando gioca per le altre squadre, nel senso che per me è meglio non averli in squadra. Poi dire che Osvaldo sia uno dei migliori talenti, sinceramente, da un esperto. No, ma Enrico, io sono tendenzialmente d'accordo con Savia Belli, ma sono in buona compagnia. Osvaldo ad esempio è molto stimato anche da Mario Sconcerti, cioè secondo me è davvero un gran bel attaccante, eh? Uno dei migliori attaccanti italiani, direi di sì. Gianni da Torino, dica. Buongiorno, visto che c'è poco tempo faccio solo una considerazione veloce. Complimenti a lei Geca, come fa il suo lavoro, come fa il giornalista, e invece Pardo, io proprio il giornalista cabareno non mi piace quel modo di fare giornalismo, solo quello volevo. Poi volevo intervenire un attimo. Non concordo, ma fa niente. Si dica del Torino, veloce. Sulle Olimpiadi di Torino c'è stato un mangia-mangia con Castellani, con l'Anna d'Oro delle Olimpiadi, eccetera, sì. La Cristelene, l'hanno incensata, eccetera. Come lei ha detto prima, hanno chiuso le fabbriche, degli artigiani hanno chiuso perché non sono state dal Toroc, perché poi qui si parla di Olimpiadi, ma hanno fatto un sacco di sottoagenzie, quello eccetera. Lei sappia solo che a Torino ci sono ancora i pupazzi delle Olimpiadi, sparsi per la città, a Sestri lo stesso, non li hanno tolti perché non dicevano quando è stato ora, non c'erano i soldi per rimuoverli. E questo con buona pace di chi le Olimpiadi a Roma le vuole a tutti i costi. Torneremo a parlarne, Giorgio De Luca, il nostro autore, Fabio Cantadori in regia, Daniele Buonamici in redazione. Sentiamo domani dopo GR delle 2, ciao. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e sparti gremiti per un gioco antico con moderni miti. Arrivo, un attimo!